Un primo maggio che sarà anche una giornata di lotta, perché dopo il 25 aprile il primo maggio ci dice chi siamo e da che parte stiamo. E quindi abbiamo scelto a livello nazionale di festeggiare la Costituzione, nata dalla Resistenza, una Costituzione che al suo interno ha il diritto alla salute, il diritto alla scuola per tutte e tutti, la Costituzione che ripudia la guerra, la Costituzione con la sua disposizione finale che vieta la ricostituzione in qualsiasi forma del disciolto partito fascista. È una giornata che non è per tutti, perché per chi sta dalla parte degli sfruttati e non degli sfruttatori. Una giornata che dovrà anche rispondere all'ultima provocazione del governo, perché un governo che nel giorno che è la festa dei lavoratori decide di fare un decreto che ulteriormente precarizza il lavoro, ha scelto di provocare CGIL e CISL e UIL. E giustamente i giorni successivi al 1° maggio saranno i giorni in cui parte una grande mobilitazione nazionale di CGIL e CISL e UIL contro le scelte politiche sbagliate di questo governo. A parte il 1° maggio in Piazza Maggiore, dagli incontri che avranno luogo la mattina al concerto del pomeriggio, ci sarà anche il 6 maggio. 6 maggio è un'altra tappa fondamentale che è quella di dimostrare, di dire soprattutto al governo che noi abbiamo posto una piattaforma. Dentro la piattaforma abbiamo temi principali per quel che riguarda lo sviluppo del nostro paese, delle lavoratrici, dei lavoratori, dei pensionati, che è il tema del fisco, il tema delle pensioni, il tema dei contratti, il tema dell'orario di lavoro, insomma tutti i temi centrali, e noi chiediamo comunque che si arrivi praticamente ad un accordo complessivo, che non ci sia solo un accordo da parte del Presidente del Consiglio Meloni nei confronti di Confindustria e quindi delle parti datoriali, ma ci sia comunque un'alta considerazione del mondo del lavoro dipendente, che secondo noi in questo momento non è considerato abbastanza. La politica dovrebbe fare una cosa fondamentale a proposito di Costituzione. Questo è un allarme che voglio lanciare in maniera forte. Noi viviamo in un paese in cui la partecipazione attiva delle persone alla politica attiva, quindi andare alle elezioni, tanto per capirci, è in costante calo, con dei drammi di percentuali di partecipazione delle persone. Questo sì sta minando la Costituzione. Questo sì sta giocando un ruolo fondamentale nel parlamentarismo. Guardate, noi siamo stati abituati nel passato che il rischio, abbiamo sempre detto, veniva dalle forze fuori parlamentari. Oggi quasi metà della popolazione italiana non partecipa al gioco elettorale. Quindi è un rischio pesante e su questo noi lanciamo un appello a tutte le forze politiche, non solamente a Schlein, Bonaccini, a tutte le forze politiche di far sì che questo diventi un'emergenza del paese da prendere a mano per il futuro. Ne va del futuro della Costituzione che noi celebriamo in questi giorni.